Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose day is but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti, tutte e tutto. Questo era Leonard Cohen che ci invita ad ascoltare. Io sono Lorenzo Cattel e questo è Club Chimera. È un programma radio che si presta appunto all'ascolto e all'apertura verso il mondo dei suoni e della musica e tutto quello che lo può toccare, ci si può interconnettere, quindi chi più ne ha più ne metta. Il nome Club Chimera nasce dalla figura della chimera, una figura mitologica, una creatura come l'ippogrifo, come il centauro, formata da tanti animali diversi. Nella chimera abbiamo il leone, abbiamo la capra, abbiamo il serpente. E nella tradizione la chimera è arrivata a simboleggiare l'idea di un irraggiungibile, un mondo immaginario, una fantasticheria, un'utopia, un qualcosa a cui anelliamo sempre, come se in qualche modo lo avessimo conosciuto, ma che non sappiamo davvero come raggiungere e non sappiamo neanche davvero come definirlo. Ma quello che mi piace pensare è che ogni tanto riusciamo in qualche modo a sentirlo, riusciamo ad ascoltarlo. Ed è un po' come io vedo la musica. Io sono pianista, sono DJ, sono un interprete, sono un grande ascoltatore, non sono un grande archivista di musica, ma sono un grande ascoltatore. Ma spesso mi sembra quasi che, non lo so, ci sia un ultimo passaggio, un'ultima porta bloccata che mi impedisce di parlare la musica, di raggiungere fino in fondo quel linguaggio. E poi però mi dico, forse è semplicemente un linguaggio chimerico, un linguaggio che sempre, continuamente mi chiamerà e che non potrò fare altro che stare lì ad ascoltarlo. La mia fascinazione per la figura della chimera è nata al liceo, leggendo la poesia La Chimera di Dino Campana. Quindi, prima di lasciare spazio solo ai suoni, ascoltiamo una versione della Chimera recitata dalla mia grande amica attrice Laura Talenti. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve o sorgiso di lontananze ignote fosti. La china erbunea a fronte fulgente o giovine suora della Gioconda. O delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente. Ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica fanciulla esangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia. Ma per il vergine capo, reclino, io poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Io per il tuo dolce mistero, io per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore. Non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonte dei venti e l'immobilità dei firmamenti e i gonfii rivi che vanno piangenti e l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi argenti. E ancora, per teneri cieli lontane, chiare ombre correnti. E ancora ti chiamo, chimera. Che ha accompagnato la poesia è The Middle of Nowhere di Nicholas Jarr ed è un rework, una rielaborazione di un pezzo della pianista turca Busra Kayiki. La traccia The Middle of Nowhere ci ricorda ancora una volta un posto che non c'è, ma che è proprio lì, è proprio specifico, è nel mezzo del nulla, quel posto chimerico che forse cerchiamo di raggiungere quando ascoltiamo la musica. Il motivo per cui ho deciso di iniziare questo programma parte dalle mie riflessioni sulla musica, sull'ascolto, dalle mie pratiche. È stato aiutato da un altro podcast tenuto qui a Exalge, che ringrazio molto per la disponibilità. Un podcast chiamato Cabaret Voltaire, tenuto da Laura Cannella, che in una puntata mi ha chiamato per parlare della mia tesi, che ho finito l'anno scorso in filosofia, una tesi che ho scritto sulla filosofia appunto dell'ascoltare. L'idea da cui sono partito, che poi in qualche modo ho studiato, che è stata confermata da studi, da filosofi, da filosofe nel corso appunto della storia della cultura occidentale, è che la nostra cultura è molto basata su la predominanza del senso della vista sopra gli altri sensi. Noi tendiamo a guardare il mondo per conoscerlo e spesso ci dimentichiamo di ascoltarlo. Questo nostro sguardo però è uno sguardo molto razionalizzante, molto oggettificante, molto matematico, molto geometrico, che quindi nella mia tesi e in quello che propongo a voi di fare in questa puntata e nelle prossime, quindi di porci in ascolto, quello che si contrappone a questo sguardo razionale è appunto un farsi toccare attraverso i sensi, in questo caso attraverso l'orecchio. In questo momento sta accompagnando le mie parole un'altra traccia che si chiama Nike. È una traccia di Paulino Oliveros, Stuart Dempster e Panayotis. Sono tre musicisti, compositori, teorici, filosofi della seconda avanguardia negli Stati Uniti, che un giorno hanno deciso di incontrarsi e registrare un album totalmente improvvisato in una delle cisterne più grandi degli Stati Uniti, che era stata abbandonata. Hanno portato i loro strumenti e hanno registrato il pezzo. Il pezzo si chiama Nike, ma fa parte dell'album Deep Listening, che è proprio una delle guide fondamentali, credo, quando si vuole pensare a praticare un ascolto più profondo e più in contatto con quello che ci circonda. Pauline parla di Deep Listening come di un ascolto che non ascolta solo i significati di quello che è intorno a noi, ma anche come quei significati colpiscono il nostro corpo. Lei usa questo metodo, anche questa teorizzazione dell'ascolto nella sua stessa composizione, per cui fa tantissime pratiche compositive in cui invita persone anche non musiciste a partecipare, ad ascoltarsi a vicenda, a fare suoni, a lavorare con l'ambiente, ma sempre a produrre suoni che partono da un ascolto di quello che è intorno a noi. Una cosa molto bella che ha detto in un'intervista riguardo a quest'album Deep Listening è come l'ambiente in cui si trovavano, questa cisterna enorme, non era semplicemente un ambiente ad ospitarli, ma era uno strumento al pari della loro voce, al pari della fisarmonica di Pauline Oliveros. Uno strumento che quindi ha un potere agentivo, si direbbe, un potere di azione pari a quello degli esseri umani. E quindi l'ascolto che si propone è un ascolto che va al di fuori del soggetto, dell'individuo, ma che riconosce l'azione del toccarsi a vicenda di tutte le componenti del nostro ambiente, l'ambiente stesso, gli animali, le cose, gli oggetti e le persone che ci sono dentro. Quindi ascoltiamo un po', senza le mie parole, Nike. La contrapposizione tra questa idea di vista oggettificante che mira al conoscere, al catalogare, all'oggettificare, e invece un ascolto più sensibile, più che mira all'aspetto affettivo di come le cose ci toccano, è una questione secondo me molto interessante che vi propongo con un'altra traccia. In questo caso si chiama Foreign Bodies, è una traccia di Matthew Hamper e fa parte dell'album Bodily Function, un album in cui vengono usati tanti samples, tante registrazioni di suoni quotidiani e anche soprattutto di suoni di corpi per comporre la musica. Questa traccia inizia con il testo che ci invita letteralmente ad ascoltare un corpo e poi ci parla di però un corpo estraneo. Ed è qui, secondo me, che torna l'idea della chimera, che sarà un po' il filo conduttore di tutte le mille teste, di tutte le fantasticherie di questo programma. Perché quando ascoltiamo dei suoni che non sono necessariamente solo delle parole, ci sembra di capire quello che è l'altro, però rimane sempre un'alterità, un'estraneità, un qualcosa di irraggiungibile, che è appunto quella chimera di cui parliamo prima, che forse non riusciamo a raggiungere con l'intelletto, con la mente, ma sicuramente in qualche modo riusciamo a raggiungerlo con il corpo e con l'emozione. E mi è allora sembrato che il testo di questa traccia, di questo foreign bodies, di questi corpi esterni raccontati da questa traccia, ci racconti proprio un toccarsi a vicenda dei corpi e anche appunto un usare i corpi per registrare suoni, per creare una canzone. Thank you. Okay, stop. Quando parlo di ascolto e lo contrappongo a un senso della vista oggettificante, ovviamente l'idea non è quella di proporre ok, non guardiamo più il mondo, impariamo solo ad ascoltarlo. L'idea è quella che per come è stata costruita una certa cultura, una certa forma mentis di pensiero, di cui magari potremo parlare più a lungo in altre puntate, tendiamo a guardare il mondo in modo oggettificante. E quindi la mia proposta, perché a me piace la musica, perché io sono musicista, è quella di imparare dall'ascolto come rivivere una percezione, un'esperienza corporea e sensibile del mondo. E quindi in questo modo anche come imparare a guardare il mondo con uno sguardo più attento anche alle componenti più sensibili e più affettive del mondo. Uno sguardo che secondo me è quello di cui ci raccontano i New Trolls in Ho veduto. Ho veduto nascere il sole dai ghiacci di Thule. Ho veduto i riflessi dorati delle moschee, le onde adulte dell'acqua scogna, gli squali bianchi, i tukul, le case dei ricchi, e ho pianto. Ho veduto mare che mare, terra che terra, come in me, come a Lisbona, come da noi. Ho veduto grano che grano, fango che fango. Del mondo e ho pianto. Ho visto amare, premere, alzare. Ho veduto la faccia sporca di un amico, lo stupore di una pazzia, di una morte. Ho veduto l'ironica faccia di chi mi odia, gli occhi larghi di chi ha paura e ho pianto. Golfo di Aden, ho veduto il buio e la luce e ancora piango. Ho parlato tanto, un po' troppo, per una rassegna radio dedicata alla musica, al suono, all'ascolto, in cui ho invitato a ascoltare il mondo e come ci dice le cose, ma non tanto quello che ci dice. Quindi adesso andremo con un libro flusso sonoro, di tracce una dopo l'altra, non dirò neanche i titoli, gli artisti, ma c'è sempre Shazam per quello, che è un po' quello che mi immagino sarà da qua in poi la struttura di questa rassegna. Qualche chiacchiera, qualche parola, qualche descrizione, però sempre abbastanza spazio per semplice ascolto. Thank you. adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Thank you. Pictures came with touch, a painter in my mind. Tell me what you see. A tourist in a dream, a visitor, it seems. A half-forgotten song, where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room. A door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more. Con Leonard Cohen che ci ricordava di ascoltare, e finisco con i Daft Punk che invece ci ricordano di toccare, che più o meno sono la stessa cosa. Prima però aggiungo un'ultima parte. Io pensavo oggi per questa prima puntata di non suonare il pianoforte, di lasciare solo tracce di altre persone, di non mettermici io. Ma è successa una cosa proprio questa settimana che mi ha fatto pensare che deve essere per forza condivisa. C'è un mio caro amico palestinese con cui in realtà non sono più in contatto, una cara persona che non sento da anni, ma che è rimasto molto in contatto con un'amica in comune. E si sono sentiti domenica scorsa e lui le ha detto: guarda, chiedi a Lollo che se vuole fare qualcosa per me in questo momento, mi piacerebbe molto ricevere una registrazione del preludio in do diesis minore di Rachmaninoff. Per fortuna l'avevo già studiato questo preludio, quindi è stato facile da rimettere nelle mani ma mi sembra di non dover neanche dire quanto sia speciale che in questo momento questa persona chieda a me di dedicargli un pezzo quando potrebbe benissimo ascoltarlo su YouTube da mille altri pianisti forse più bravi di me. Quindi ancora una volta la musica, l'arte, ma quello che vogliamo, un po' le chimere di cui si è parlato tutto il tempo ci ricordano che un'intensità nella condivisione, nel toccarsi a vicenda è quello che ci rimane, a cui anelliamo sempre. Quindi questo pezzo, il preludio opera 3 numero 2 in do diesis minore di Rachmaninoff, è dedicato a Zeid e a tutte le persone che non smettono mai di ascoltare e di ascoltarsi.